Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il saluto vi viene anche da Riccardo Poli, che è in redazione con me a confezionare questo programma, da Mauro De Angeli, che darà anche quest'oggi ritmo e musica. Per interagire con noi, per domande o suggerimenti, sms 349-238-6666, la mail nessunluogo@radio24.it e poi la pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi la Libia richiama la nostra attenzione e allora noi andiamo subito a Tripoli. So the rebels were driven back out of the center of the compound here this morning, back out to the outer wall. They've just stormed back in. They're now firing rockets into the middle of the compound. You can hear one going in now. E questo era il momento concitato dell'assalto al compound raccontato dall'inviato della BBC, il compound dove doveva esserci Gheddafi. Gheddafi non c'è ancora, continua il giallo sulla sorte del Rais, con momenti anche di colore perché le agenzie iniziano a battere anche le domande. Ci si chiede dove siano anche le famose Amazzoni, la guardia del corpo del Rais. Cerchiamo di saperne di più, le ultimissime, con Roberto Bongiorni del Sole 24 Ore, che è in diretta da Tripoli. Roberto. Sì, in questo momento sono qua con i quattro giornalisti, sono appena andati via in albergo, sono molto provati ma stanno tutti bene. Vi passo, se avete parlare nel secondo, Domenico Quirico, che avevo incontrato durante il viaggio. Ve lo passo un secondo, che potete parlarci. Sì. Domenico. Pronto. Pronto, Domenico. Innanzitutto, sì, vabbè, abbiamo sentito, state bene, ci rassicuri anche tu in questo? Sì, stiamo bene. Siamo sopravvissuti a questa terribile esperienza, ma stiamo bene. Sì. Domenico, una domanda subito, perché intanto non era chiaro fino a qualche minuto fa dove siete stati fermati, bloccati e poi rapiti. Noi siamo stati fermati e rapiti a non più di un chilometro dalla Piazza Verde, nel pieno centro di Tripoli, dove iniziano le linee dei realisti, insomma, diciamo, delle milizie di quanto resta dell'esercito di Gheddafi. E siamo passati in un posto dove non bisognava passare, sono spuntati militari e civili armati, perché così è ormai, così sono ormai le forze di Gheddafi, ci hanno costretti a girare la macchina in una delle strade laterali nel quartiere che loro controllano, e di lì è cominciata tutta questa storia, peraltro straordinariamente breve, perché francamente non più di 3 o 4 ore fa avrei detto che sarebbe durata molto a lungo, invece incredibilmente tutto è finito rapidamente. Ecco, Domenico. Non bene, perché c'è una persona che non è sopravvissuta, certo, a questa cosa, ed è il nostro autista che è stato ucciso davanti ai nostri occhi con una raffica di mitra. E questo è il vero. Per me e anche per gli altri colleghi che erano con me, la chiave di questa storia, della tragedia che ci porteremo dietro, insomma, perché quest'uomo non c'è più. Noi siamo vivi qua a chiacchierare, a discutere, a parlare con le nostre famiglie, a dire che ce l'abbiamo fatta. C'è tutta una serie di persone che invece non potranno fare la stessa cosa. Domenico, secondo te perché è stato ucciso? Voglio dire, hanno visto in lui un libico che comunque veniva da territorio ribelle? Aveva scritto sul passaporto che veniva da una città che si chiama Zawiya, che ha dato pena e triboli agli uomini di Gheddafi, e si è liberata dopo mesi e mesi di combattimenti. E poi perché uno che veniva dall'altra parte certamente doveva avere qualche rapporto con quelli che loro considerano traditori e non quelli che stanno anche cercando di ammazzarli, e quindi l'hanno ucciso lì sul posto. Domenico, hanno lasciato, dal momento in cui ci hanno preso, non più di 5-10 minuti. Domenico, un'ultima domanda relativa al blitz che è stato compiuto per liberarvi. Chi ha aperto la porta della vostra prigione? Non c'è stato nessun blitz. Le agenzie hanno battuto. Le agenzie ancora una volta non hanno raccontato quello che è successo, ma capisco che fosse complicato essere. Non c'è stato nessun blitz, semplicemente due persone che ci hanno salvato mettendoci a casa loro e difendendoci da quelli che ci volevano ammazzare. Questa mattina, probabilmente perché la situazione in quella zona è cambiata, probabilmente perché non c'erano in quel momento delle forze di Gheddafi che controllavano in particolare una certa strada, ci hanno caricato rischiando la vita ancora una volta loro stessi, perché potevano essere ammazzati anche dagli altri, anche dagli altri, ci hanno caricato su un camion cigolante e asmatico che a fatica ha compiuto un percorso che non potrei mai ricostruire, enormemente lungo, e ci hanno portato fino al primo posto di controllo dell'armata rivoluzionaria e ci hanno consegnato a questi qua. E ci sono due persone in questo momento in questa città dove, come sentite forse sullo sfondo, si sta fragorosamente sparando, non di gioia, credo, che hanno salvato quattro persone che erano a loro totalmente estranee, che hanno incontrato ieri mattina, ieri all'una, che sono in teoria loro nemici, perché i paesi a cui appartengo li hanno bombardati e sono nella coalizione avversaria, e rischiando di diventare ostili persino alla loro parte, ci hanno salvato senza guadagnarci nulla, noi non avevamo soldi perché ci hanno portati via subito, non ci hanno chiesto niente, né di portarli da questa parte né di domani quando la rivoluzione vincerà di testimoniare che sono brava gente, semplicemente per niente, carità umana. Erano armati, Domenico? Loro no, e semplicemente con la loro autorità, credo che avessero un ruolo, non so dirvi quale, all'interno di questo mondo ancora che si aggrappa a Gheddafi fino alla fine, probabilmente avevano dell'autorità, perché disarmati e giovani hanno impedito a decine e decine di esaltati dall'odio, dalla volontà di vendetta, da tutto quello che voi potete capire, che ha un suo senso in questa tragedia, lo devo dire, ci hanno impedito di ammazzarci, che sarebbe stata la cosa più normale in questa situazione, la cosa più normale in questa situazione, perché noi eravamo lì dove non dovevamo essere, noi venivamo dal campo nemico e siamo parte di una coalizione, poi non possono sapere quali sono le mie idee, cosa io penso di questa guerra, insomma tutte queste sono distinzioni che non hanno senso in questo contesto. Ebbene, queste persone ci hanno salvato. Punto, finita, ecco la storia. Grazie allora Domenico Quirico per questa tua testimonianza. Buona giornata e buon lavoro comunque. Roberto, sei ancora con noi? Sì, sono ancora con voi. Ecco, Roberto, le ultimissime dal campo, a parte appunto questa buona notizia della liberazione dei nostri quattro colleghi, che aria tira Tripoli questa mattina? Una notizia comunque che conferma che alcune parti della città sono ancora in mano ad elementi o bande allo sbando, scusate il gioco di parole. Dunque, la notizia, come avevo già anticipato ieri, è che la battaglia ora è diretta all'aeroporto di Tripoli, ci stiamo andando ma stiamo cercando le precauzioni e le vie più sicure, dove si pensa che possa, alcuni sostengono, ribelli, essersi rifugiato Gheddafi. Stamattina decine di pick-up armati di contrario e di mitragliatrici pesanti si sono recati all'aeroporto. Alcuni quartieri, Abu Salim, Mansour in pace, sono ancora in corso combattimenti, però come prima di tutto quelle raffiche non erano disparate, erano dei festeggiamenti. Ci vorrà del tempo, rimane comunque il problema cecchini. Ecco, prego. Roberto, sì, no, la linea era leggermente disturbata, ma adesso possiamo sentire bene nuovamente. Parlando con i ribelli, si riesce a quantificare la resistenza dei lealisti? Quanti cecchini? Siamo nell'ordine di centinaia, di migliaia. Dacci un ordine di grandezza se è possibile. Assolutamente no. Ieri abbiamo partecipato a una missione per stanarne uno di cecchino, dove è stato ferito molto gravemente un civile che sparava, il comandante Mohammed, che è incaricato militare di lunga carriera di coordinare i comitati alla ricerca di cecchini, perché li accerchiano, li tendono, li stanno, ma assolutamente idea. Molti sono mercenari che tentano la via di fuga, soprattutto del Chad ultimamente. Altri invece sono fedelissimi di Gheddafi, come una donna che hanno preso ieri, disposti al martirio, ma è molto difficile quantificare il loro numero. Ma anche poche decine, al massimo centinaia, rischiano di tenere paralizzata la città per alcuni giorni. Ecco, questo è un po' il pericolo. Sì. Roberto, l'altra domanda di natura sempre, come dire, tattico-strategica. Tra le file dei ribelli che in questi giorni stanno ingaggiando a Tripoli e stanno conquistando pane, insomma un 80% della città, ci sono molti ribelli di Tripoli stessa che quindi conoscono la città, ovvero la maggioranza di loro viene dalle città esterne, appunto alla capitale? Assolutamente, la maggior parte è formata da bande al di fuori. Vi sono, e questo è il maggiore rischio, è toccato un argomento strategico importante, la maggior parte dei ribelli viene da fuori, quelli di Bengasi sono un po' più organizzati, gli altri sono bande anarchiche di Zintan, la città di Zawiya, che sono arrivate, altre dalle montagne e da gruppi che erano sostenitori di Gheddafi si sono uniti al, diciamo, al carro che vince, al cavallo che vince, ed è per questo che in alcune zone cominciano ad emergere dei dissapori sulla gestione dei controlli dei checkpoint e così via. Insomma, la situazione è abbastanza delicata, perché è venuto meno il collante comune che teneva unite tutte queste bande di ribelli che appartengono a clan che prima della rivolta erano rivali, alcune volte in conflitto tra loro. La grande domanda è: una volta venuto meno il collante, sapranno davvero rimanere uniti? Questo è l'interrogativo. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori. 13:32, torniamo subito in diretta da Tripoli con Roberto Bongioni. Roberto? Eccoci qua. Roberto, l'altra domanda che volevo farti è: si è scritto tantissimo in questi giorni sulla presenza di consulenti stranieri tra le file dei ribelli. La NATO ha smentito la presenza di militari in quanto NATO, però insomma diverse fonti hanno rivelato che agenti britannici, francesi, del Qatar e giordani sono presenti sul territorio libico da tempo e stanno dando un discreto supporto all'avanzata dei ribelli. Lì da Tripoli che sensazione si può avere? Hai avuto sentore di qualcosa? Hai udito qualcosa? Beh, direttamente non ne abbiamo visti perché stanno ben nascosti, però è una notizia molto credibile. Sembra da alcune fonti affidabili che abbiamo consultato tra le file dei ribelli, da militari di carriera, quindi non da ribelli disordinati, giovani, che ci sarebbero dei servizi britannici, i SAS. L'obiettivo sarebbe però preciso non assestare il colpo ai miliziani di Gheddafi, ma catturare il Rais qualora si trovasse ancora a Tripoli o all'aeroporto. D'altro canto anche a Bengasi, nei primi giorni, quando c'era meno caos, appena entrati, quando avevano aperto subito la frontiera, abbiamo visto anche di persone dei consiglieri militari americani o britannici, quindi è da tempo che si trovano in loco. Quello dei soldati di unità forze speciali, quella notizia credibile, non confermata naturalmente. Allora, grazie intanto Roberto Bongioni per la tua corrispondenza, buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti, arrivederci. Allora, cambiamo pagina, perché è vero, ci sono le agenzie che intanto stanno battendo del comitato dell'incontro tra Gibril e Berlusconi, che è in corso in questi minuti. Poi noi più tardi ci collegheremo con Raffaella Calanda, che lo sta seguendo per noi, e cercheremo di capire che cosa uscirà da questo incontro. Ma adesso appunto cambiamo pagina e andiamo in Sudan. Andiamo in Sudan perché è vero che la Libia ruba in qualche modo tutti i riflettori, le telecamere, i microfoni, ma il Sudan insomma è un tema, un territorio interessantissimo che ogni tanto sfioriamo qui a Nessun Luogo Lontano. Stavolta cerchiamo di indagarlo un po' meglio. Lo facciamo con Irene Panozzo, giornalista, ricercatrice, esperta appunto del paese africano. Irene, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, Irene, a luglio il Sud Sudan ha dichiarato ufficialmente la propria indipendenza. C'è un soggetto in più in Africa, c'è anche un soggetto in più lì vicino al Nilo, insomma questo poi apriamo il capitolo sull'acqua, un nuovo soggetto, e però gli scontri continuano, ci sono scontri sia tribali, ci sono zone confinanti, territorio contese. Cerchiamo di fare un po' di ordine partendo da quelle che sono le zone frontaliere contese tra Nord Sudan e Sud Sudan. La prima zona contesa proprio sul confine tra il Nord e il Sud Sudan e l'area di Adyei, che è un'area in realtà molto piccola rispetto alle enormi vastità sudanesi, e che è abitata in parte da una popolazione sud-sudanese, i Dinkangok, ma anche da una popolazione araba. E questo ha creato, insieme a tutta una serie di altre cause anche storiche, un problema che si protrae in realtà da ormai quasi 40 anni, nel senso che già durante la prima guerra civile tra Nord e Sud Sudan, gli Dinkangok di Adyei avevano combattuto con il Sud, sperando poi di ottenere, e l'avevano ottenuto nel trattato di pace, il diritto a un referendum per scegliere se ripassare al Sud o rimanere al Nord. La stessa cosa è successa con la seconda guerra civile e con il trattato di pace del 2005, e quindi Adyei avrebbe dovuto avere un referendum parallelo a quello per l'autodeterminazione, sì, del Sud, con cui il Sud ha avuto l'indipendenza, e invece quel referendum è saltato, non è stato fatto, e la questione rimane aperta e non si sa ancora se le parti riusciranno a trovare una soluzione politica a questo punto, visto che appunto il voto è saltato. Ecco, Irene, perché quella zona lì è contesa? Adyei è alla fine insomma una zona ricca. È una zona ricca, è stata soprattutto negli ultimi anni una zona ricca di petrolio, e anche se ormai ha già superato il suo picco petrolifero, quindi la produzione petrolifera di Adyei sta già calando e continuerà a calare. Però è molto importante dal punto di vista dell'accesso alle risorse delle popolazioni che vi abitano. Sia i Dinkangok che i Misiria, la popolazione araba, sono nomadi allevatori di bovini, e quindi hanno bisogno di accedere alle terre, all'acqua ovviamente, al fonte d'acqua, ma anche di potersi muovere, soprattutto in Misiria, che in realtà stanno più a nord e scendono a Adyei solo nella stagione secca. Devono potersi muovere e utilizzare i tratturi tradizionali della transumanza. Il grande timore dei Misiria è che se Adyei passa al sud, loro non potranno più usare i loro sentieri della transumanza, e quindi rischieranno di non avere accesso ai pascoli durante la stagione secca. Ecco, questo è un problema molto locale, ma si ripropone lungo tutti i 2000 e passa chilometri di confine tra nord e sud sostanzialmente. Il fattore dell'accesso alle risorse è uno dei punti cruciali che riguarda la storia del Sudan e poi della storia del nord e del sud del paese. C'è poi il fattore etnico e quello religioso. Correggimi se sbaglio, c'è un nord arabo e un sud africano nero. Un nord a maggioranza più o meno musulmana e un sud animista. Nella storia del Sudan Bashir ha sempre usato il pugno duro verso gli africani, verso i neri, grazie anche insomma a questa sua queste sue che ne so, ad esempio in Darfur con l'uso dei Janjaweed, no? Cioè anche con insomma mezzi militari. Quanto questi fattori adesso, come dire, sono ancora rilevanti e quanto ancora funzionano? Sono ancora rilevanti non tanto nel rapporto tra Nord e Sud Sudan, perché ormai il Sud Sudan è diventato indipendente e quindi si gestirà da solo e regolerà da solo naturalmente anche la rappresentazione delle diverse anime che lo popolano, perché poi il Sud Sudan da solo è abitato da più di 100 etnie diverse. E in realtà rimane un problema anche nel nord, perché tu dicevi il nord è arabo e musulmano, in realtà c'è un nucleo centrale nella zona proprio più geograficamente più centrale del Nord Sudan, che in effetti è abitato soprattutto da popolazioni arabe, ma in tutte le periferie, diciamo, geografiche all'interno del nord, quindi il Darfur, ma anche il Kordofan meridionale vicino ad Abyei ed vicino al confine con il sud, e poi verso l'est sulla costa del Mar Rosso e nell'estremo nord, quasi al confine con l'Egitto, abitano una serie di popolazioni che non sono arabe, non si riconoscono come arabe, si riconoscono come africane, pur essendo in larghissima maggioranza musulmane. Quindi rimane comunque un problema di identità, di definizione dell'identità nazionale. Questo ovviamente rimane ancora un fattore aperto, molto aperto, in Darfur, perché di fatto la guerra in Darfur non ha ancora visto una soluzione. Sì. È diventato una nuova fonte di crisi in Kordofan meridionale, dove abita una popolazione Inuba che hanno combattuto con il sud, ma sono settentrionali e quindi sono rimasti all'interno del nord, e dove si combatte da 2 mesi, rischia di diventare un altro problema nel Nilo Azzurro meridionale, dove di nuovo le popolazioni locali africane hanno combattuto con il sud, ma sono parte del nord. Quindi rimangono una serie di sfide, non solo per il sud, che dovrà naturalmente cercare di costruire uno Stato, costruire un'identità nazionale, dare dei servizi di base in uno Stato che è tra i più sottosviluppati al mondo. Ti interrompo, Irene, anche nel nord. È sottosviluppato, però ricordiamo che la maggior parte dei giacimenti petroliferi sono proprio lì, no? Nel sud, mentre le raffinerie stavano a nord. Questo era uno dei motivi di contrasto sugli accordi, dei contratti tra nord e sud. Sì, assolutamente. Di fatto il 75% delle risorse petrolifere del vecchio Sudan Unito, rimangono all'interno del sud. Il problema è che appunto le infrastrutture, come ricordavi tu, sono al nord, quindi a questo punto entrambi i governi, a Khartoum e a Juba, hanno necessità di trovare un accordo su questa interdipendenza, che è fortissima, perché il nord ha perso l'accesso alla risorsa pura e semplice, ai campi petroliferi, ma d'altra parte il sud, che non ha sbocchi al mare, non può fare altro, almeno in questi primi anni, che utilizzare l'oleodotto, le raffinerie e il porto di Port Sudan, e quindi tutte le infrastrutture del nord, per poter esportare il proprio petrolio, perché altrimenti il petrolio c'è ma rimane lì, non viene esportato. E su questo di fatto non è stato possibile trovare un accordo prima dell'indipendenza del sud. Stanno ancora negoziando nord e sud, i negoziati che si svolgono ad Addis Abeba. Speriamo che quanto prima si possa trovare un compromesso. Allora, questa è la situazione in Sudan. C'è il traffico? No, fra un minuto e mezzo ancora abbiamo tempo per parlare di un altro aspetto del Sudan, che è la presenza dell'ONU, massiccia, anche di caschi blu, perché, come spiegavi giustamente tu, la guerra civile è stata profonda e ha segnato il territorio, e gli scontri tribali proseguono. Questo ruolo dell'ONU, che, come dire, la storia africana, la storia della presenza ONU in Africa non è segnata da grandissimi successi. Qui in Sudan che cosa possiamo dire? In Sudan è una presenza importante, perché obiettivamente ci sono 2 missioni di peacekeepers, una congiunta con l'Unione Africana per il Darfur, e l'altra che fino al 9 luglio, il giorno dell'indipendenza del Sud, riguardava l'intero paese, e che invece adesso è stata riformulata e riguarderà soltanto il Sud. Quindi è una presenza che comunque in questi anni è stata molto importante, e che soprattutto per quel che ha riguardato la pace tra nord e sud, effettivamente è riuscita a garantire la pace. Dopodiché le sfide sono enormi, citavi prima gli scontri tribali degli ultimi giorni che si sono verificati nell'angolo orientale del Sud Sudan, al confine con l'Etiopia, e ci sono stati solo in pochi giorni di scontri circa 600 morti, ma erano scontri di vendetta su altri scontri che c'erano stati a giugno. Sì. In quell'area lì, ad esempio, i peacekeeper hanno una base e un compound molto bello con un bel generatore, l'elettricità eccetera, ma sostanzialmente vuoto. E quindi poi devono affidarsi alle pochissime ONG presenti sul terreno, tra cui l'italiana Intersos, per avere notizie su quello che succede realmente ed eventualmente intervenire. Però certo, naturalmente questo poi provoca dei ritardi e delle inefficienze immaginabili. Questo dunque è uno dei tanti paradossi, insomma, che l'Africa a volte ai noi regala. Grazie Irene Panozzo per il tratteggio che abbiamo fatto al Sudan. Buona giornata, buon lavoro. Nessun luogo è lontano. E ancora buongiorno, gentili ascoltatori. 13:46, Nessun luogo lontano. Torniamo a parlare di Libia dopo questa parentesi sul Sud Sudan, perché è vero, insomma, la Libia sta rubando la scena a quelle che sono tante altre notizie meritevoli di attenzione. Allora, Libia, perché? Perché quest'oggi c'è la seconda tappa di questo tour diplomatico di Mohamed Jibril, numero 2 del Consiglio Nazionale Transitorio Libico. Ieri ha incontrato Sarkozy all'Eliseo, oggi sta incontrando, anzi ha già incontrato e c'è in corso la conferenza stampa, il nostro premier Silvio Berlusconi. Ne sa di più Raffaella Calandra. Ciao, buongiorno. Sì, è appena conclusa la conferenza stampa qui in prefettura tra il premier Silvio Berlusconi e, come dicevi, il presidente del governo transitorio libico Jibril. Un accordo importante che ha innanzitutto fatto il quadro complessivo della situazione in Libia e anche delle intese, dell'appoggio che il nostro paese ha assicurato il premier continuerà a dare al nuovo governo libico nel rispettare, nel aiutarli nelle esigenze che avrà ora in questa fase di transizione. Quindi innanzitutto alcuni punti fermi, come il fatto che l'Italia abbia sbloccato 350 milioni di euro di titoli libici che dovranno servire per la ricostruzione in questa fase della transizione del paese. Dopodiché il presidente Berlusconi ha assicurato l'appoggio del nostro paese per la formazione del futuro esercito della Libia, come siccome nella formazione, nell'aiuto sanitario e nell'aiuto nel ripristinare le istituzioni giudiziarie e scolastiche. Da parte sua, appunto, il presidente Jibril ha puntato soprattutto sull'importanza che per il suo paese in questo momento ha avere una liquidità, quindi che siano scongelati tutti i beni di questo paese che è ricchissimo, ma che appunto ha visto tutte le sue ricchezze essere congelate negli ultimi momenti, perché appunto servono a rimettere in funzione un paese dove ha detto Jibril ci sono intere famiglie che da mesi, ha detto almeno 4 mesi, non ricevono più lo stipendio. Se questo è il quadro complessivo, un quadro in cui ovviamente si è parlato anche della liberazione dei 4 giornalisti italiani a Tripoli, nel frattempo si guarda già oltre, e a questo incontro che c'è stato qui in prefettura a Milano hanno partecipato anche i vertici dell'ENI. L'ENI che ovviamente è il principale gruppo italiano presente in Libia, che guarda con grande attenzione a quanto sta succedendo in Libia. Ebbene, proprio poco fa l'amministratore delegato Paolo Scaroni ci ha detto che lunedì sarà a Bengasi per sottoscrivere un accordo con il governo transitorio libico, un accordo che innanzitutto servirà ad aiutare la popolazione libica, perché l'ENI darà gas e benzina che servono alla popolazione libica in questi primi momenti di emergenza, che saranno ripagati, ha detto Scaroni, in un futuro con il petrolio. Dopodiché chiaramente ci sono in ballo poi le riprese di tutti gli appalti e di tutte le estrazioni, tutti gli accordi che l'ENI ha in Libia, ma perché tutto ritorni nella normalità ovviamente è necessario che ci sia innanzitutto un ripristino dell'ordine pubblico, e questo in questo momento è difficile dire quando potrà avvenire. Chiaro. Raffaella, un'ultimissima domanda: fino adesso è stato sfiorato il tema della presenza di truppe di terra? Purtroppo non ci è stato consentito fare delle domande, perché era esattamente uno dei punti centrali da chiedere. Il Presidente ha detto che l'Italia, il Presidente Berlusconi ha detto che l'Italia avrebbe sostenuto la Libia nella formazione anche del suo futuro esercito e quindi nell'addestramento dei futuri militari, che è in sostanza poi anche una delle operazioni che i nostri soldati fanno in Afghanistan, ad esempio. E quindi chiaramente la domanda sarebbe stata la prima domanda da fare, ma non c'è stato consentito. Va anche detto che la NATO in primis ha più volte ripetuto in questi giorni che non ci sono truppe di terra e che non ci sarebbero state, quindi l'ipotesi di caschi blu dell'ONU, aveva ricordato il ministro della difesa la russa, sarebbero soltanto non europei ma africani o comunque o arabi. Grazie allora Raffaella Calandra, buona giornata, buon lavoro. A voi, grazie. Eh sì, perché era una delle domande, come dire, del momento, già che da fonti attendibilissime ormai si sa che agenti stranieri hanno fatto innestare la quinta marcia all'avanzata dei ribelli. Continuiamo a parlare di quello che è il fronte politico, perché mentre, come dire, a Tripoli quello militare rimane estremamente fluido, estremamente delicato, questo tour diplomatico di Jibril sta andando avanti. Cerchiamo di capire meglio obiettivi e dinamiche di questo tour con Farid Adli, giornalista e collaboratore del Corriere della Sera. Farid, buongiorno. Buongiorno anche a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, il Consiglio Nazionale Transitorio negli ultimi mesi ha guadagnato in consensi, in riconoscimenti ufficiali da parte anche dei paesi vicini, penso ultimamente a Tunisia ed Egitto, e si è sforzato fin da subito, dobbiamo dire, nel allestire un apparato diplomatico all'estero che gli desse, no, spalle forti e una certa credibilità. Ci aiuti a capire meglio perché queste due tappe, guarda caso, no? Parigi, Roma e poi andrà in Turchia, Jibril. Ma io penso che la ragione principale è quella di marcare il ruolo che alcuni paesi hanno fatto per causa della libertà in Libia. Ricordiamo che un precedente viaggio aveva toccato Stati Uniti e Londra, la Francia e Italia hanno avuto tantissimo per quanto riguarda la salvezza della popolazione civile libica e la garanzia di una vittoria per chi ha combattuto per la libertà in Libia contro la tirannia. La Turchia, anche se nel primo momento ha tergiversato, poi alla fine ha capito dove stanno gli interessi del popolo libico e anche di conseguenza gli interessi delle aziende turche, e giustamente ha raddrizzato il tiro e ha dato un contributo fortissimo nel sostegno al Consiglio Nazionale Transitorio e al suo riconoscimento da parte di molte altre mondo islamico. Questi tre paesi, Francia, Italia e Turchia, insieme agli Stati Uniti e Gran Bretagna, sono paesi che hanno enormi interessi economici in Libia e bisogna in qualche modo cominciare a pianificare quelle che sono le possibili future azioni. La Libia è un paese che ha bisogno di essere ricostruito, è un paese che ha bisogno di un aiuto immediato per quanto riguarda la copertura finanziaria per l'impegno della ricostruzione, ma soprattutto anche di liquidità per pagare gli stipendi dei lavoratori, dei dipendenti, degli impiegati dello Stato di tutta la Libia. Non solo di Bengasi, che da 4 mesi non prendono gli stipendi, e di conseguenza il Consiglio Nazionale Transitorio ha bisogno anche di ricostruire non solo riconoscimenti internazionali ma anche un'immagine positiva all'interno del paese, di essere all'altezza di poter governare. La prima questione è che tra pochi giorni c'è la Eid al-Fitr, che è la festa per la rottura del digiuno islamico del mese di Ramadan, e dove si comprano doni e vestiti nuovi, e se la gente non ha i soldi non lo potrà fare. Ecco, in questo senso abbiamo sentito dalla Calandra che il governo italiano sta per scongelare una prima tranche da 350 milioni di euro, quindi liquidità che vanno nelle tasche del CNT per rimettere in moto un po' tutta quella che è la macchina economica del paese. Si è fatto riferimento al agli interessi economici. È chiaro che Francia e Italia stanno in prima linea. Sempre parlando di CNT, Farid, si è molto parlato, noi stessi abbiamo toccato l'argomento, di quella che è uno spettro paventato da molti, quello di possibili rigurgiti estremisti in seno al CNT una volta che la battaglia campale per Tripoli sarà compiuta. Si è detto di Gruppo Islamico Libico Combattente, che avrebbe tra le fila degli insorti, insomma, dei suoi miliziani che stanno combattendo, e quindi dopo la vittoria sul campo potrebbero in qualche modo dire: beh, adesso è ora di riscuotere anche politicamente. Esiste o no questo rischio di deriva estremista? Io credo che sia minima questa deriva, perché ci sono e nessuno lo nasconde. Lo stesso Jalil tre giorni fa l'aveva detto, ha detto però anche chiaramente che questo è un pericolo che può ritorcersi contro lo stesso popolo libico, e ha fatto l'esempio dell'assassinio di Abdel Fattah Younes, il ministro della difesa del Consiglio Nazionale Transitorio, e aveva detto chiaramente che noi non permetteremo questo, e credo che nel momento in cui ci sarà una politica democratica, il multipartitismo, la libertà di tutti di esprimersi e garantire quello che sarà l'alternanza al potere, sia le correnti socialiste, democratiche, liberali, islamisti o nazionalisti in Libia avranno varie dignità. Addirittura c'è molta apertura anche al ritorno di Mohamed Senussi, il discendente della famiglia regnante in Libia prima del colpo di Stato di Gheddafi nel 69, e quindi non c'è nessuna chiusura nel confronto di tutte le correnti politiche e ideologiche in Libia. Ecco, la rivoluzione deve essere includente e non escludente, ha detto Jalil l'altro giorno, lo stesso l'ha ripetuto Jibril qualche giorno fa in una conferenza stampa a Bengasi. Credo che c'è una classe dirigente libica che è capace di far fronte a questa situazione, e credo che la stessa esperienza di questi nostri giornalisti italiani che sono stati rilasciati, liberati dall'azione di due uomini libici fedeli a Gheddafi ma con una grande umanità, penso che dimostra un po' quello che è lo spirito di umanità del popolo libico, che non è un popolo abituato alla guerra ed è stato costretto a farla semplicemente per la tirannia di un regime familiare dei Gheddafi. Grazie allora Farid Adli per questa tua testimonianza, buona giornata e buon lavoro. E in effetti, insomma, l'abbiamo più volte ripetuto nei giorni scorsi, la vera sfida del Consiglio Nazionale Transitorio è quanto sarà nazionale, quanto unificherà le diverse anime della Libia. Staremo a vedere nei prossimi giorni, perché intanto a Tripoli la questione non è ancora chiusa. 13:58, 45 secondi, non mi resta che salutarvi, ringraziare Riccardo Poli in redazione, Mauro De Angela a parte tecnica. Noi ci risentiamo domani per l'ultima puntata di Nessun Luogo Lontano.